Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, nessun gallo, ci mancherebbe. Quando lo spread è a 500 punti o 495, c'è veramente poco da festeggiare. E però la nota, c'è tutta la reazione dei mercati, come si dice in gergo, c'è tutta. Perché lo dico? Perché non solo sugli indici di borsa, ma anche e soprattutto sulla parte che riguarda lo spread, ossia il termometro principale per misurare la temperatura del rischio di un paese, ebbene, perché ti dà la differenza tra quanto costa a te trovare finanziatori per il tuo debito, quanto devi offrire, e quanto invece non costi al paese più affidabile in assoluto, che è la Germania. Ebbene, anche sullo spread e soprattutto sullo spread l'effetto c'è stato: da 570 picco di ieri, poi sceso 550, oggi abbiamo recuperato 50 punti, cioè siamo intorno ai 500-505, 495, poi 500, adesso di nuovo 495. È ancora uno spread altissimo. Io ricordo che ci strappammo le vesti ad agosto, a inizio agosto, quando lo spread toccò 412 punti. Qui siamo ancora a 495 e viene quasi voglia di festeggiare, perché nella vita va un po' così, ti abitui a tutto. È ovvio che non si va da nessuna parte mantenendo uno spread a 500 punti, e questo deve essere chiaro per tutti, ma visto che stiamo navigando a vista, un cabotaggio quotidiano, ora su ora, beh, ogni tanto diamo anche la buona notizia che all'ipotesi, che ieri l'abbiamo raccontata in tutti i modi, è diventata via via sempre più concreta e definitiva, di un governo tecnico, sì, insomma, però sempre di una maggioranza parlamentare ha bisogno, a guida Mario Monti, l'effetto oggi c'è stato, cioè i tempi dell'uscita di scena dell'attuale esecutivo si sono chiariti ieri e la reazione è netta, anche perché, come stavo dicendo, Milano guadagna un punto percentuale almeno in più rispetto alle altre borse europee, Francoforte più 0,25, ma soprattutto oggi ha creato un po' di tensioni Parigi, Parigi perde lo 0,40, gli spread francesi sono saliti fino a quota 170, che rispetto a 500 punti nostri è niente. Però la Francia due settimane fa viaggiava a 100 punti di differenza con la Germania, mo sta a 170. Attenzione, perché da sempre abbiamo detto che l'Italia è in grado di trascinare con sé tutte le altre economie dell'area euro, perché le banche francesi, ma anche quelle tedesche, sono piene di obbligazioni italiane, e se è venuto fuori un tal casino per la Grecia, figuratevi cosa capiterebbe con l'Italia. Di questo abbiamo parlato oggi qui dal World Business Forum, dove siamo in diretta, grazie anche all'ospitalità di DNV, con Joseph Stiglitz, che è premio Nobel all'economia, l'uomo a cui tutti riconoscono di aver anticipato i rischi fatali della crisi che poi è esplosa nel 2008, con uno e anche due libri che andrebbero letti da tutti sull'economia ruggente ma sconsiderata. E a Stiglitz abbiamo chiesto in primo luogo che cosa pensi dell'Italia, delle situazioni in cui ci siamo cacciati. Devo dire che la risposta, pur essendo una risposta critica nei confronti del modo in cui si è mosso il governo italiano, non è così critica, vi anticipo infatti già alcuni elementi dell'intervista, come uno potrebbe attendersi, perché Stiglitz dice: attenzione, voi avete sbagliato molto, non avete fatto le cose promesse, non avete fatto le riforme, avete fatto solo annunci e tutto quello che sappiamo. Però quando il mercato si mette contro un paese o un soggetto, è comunque difficile riuscire ad andargli contro, perché inizia a chiedere un prezzo più alto per le tue obbligazioni, tu a questo punto i rendimenti del tuo debito salgono, salendo i rendimenti ti indebiti sempre di più. E a quel punto uno dice: bene, se ti indebiti di più devi offrire ancora di più, e si entra in una spirale, in un circolo vizioso da cui è difficile uscire. Così Stiglitz, ma lo ascolteremo nella seconda ora del programma. Avremo anche un approfondimento sulla Banca Popolare di Milano, su quello che è successo oggi, l'indagine della Guardia di Finanza, tre indagati nell'inchiesta della Procura di Milano di Milano con al centro i reati di associazione per delinquere e ostacolo all'attività di vigilanza. Massimo Ponzellini, che è stato fino a pochissimo tempo fa il presidente della Banca Popolare di Milano e attualmente presidente di Impregilo, Antonio Cannalire, collaboratore di Ponzellini, e una terza persona di cui al momento non si conosce il nome. Parleremo anche di questo. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. E allora subito i titoli. Azimut più 7,60%, Fiat Industria più 5,31%, Unicredit più 4,20%, Mediolanum più 4% come Pirelli. È piaciuto il piano industriale di Pirelli presentato ieri. Banco Popolare più 3,90%, Exor più 3,60%, il 3,5% lo guadagna Atlantia, il 3% Finmeccanica e anche Intesa San Paolo, il 2,70% Prismian, il 2,40% il rialzo di Fiat, il 2,20% quello di Telecom Italia, il 2% quello di UbiBank. Ansaldo STS meno 2,90, 2A meno 2,70, Lottomatica meno 2,60 come Fondiaria, sai, 1,5% lo perde in Pregilo, ma anche Eni, Mediaset perde lo 0,60%. Allora, vedo che alcuni dicono, ma insomma, ce l'avete fatta a far cadere il governo. No, adesso troppa grazia Sant'Antonio, nel senso che noi non abbiamo questo grande potere, ricordo, ma ne parleremo più avanti, anche perché vedo un po' di polemica su Mario Monti in quanto uomo che ha lavorato per Goldman Sachs, e i poteri forti, oggi il giornale titolava hanno vinto i poteri forti. Io non lo so se hanno vinto i poteri forti, so solo che lo spread a 570 punti era un dato di fatto, e che a 570 punti con un rendimento di BTP a 5 anni al 7,40-7,70% il paese va a gambe all'aria, perché non hai, sei una soglia in cui non riesci a ripagare il tuo debito. A maggior ragione se l'anno prossimo non cresceremo. Ogni tanto, lo dico anche ai miei colleghi, non vedere sempre complotti pluto-giudaico-massonici, ma capire che abbiamo fatto una pessima figura in questi mesi e non abbiamo più offerto credibilità, giusto o sbagliato che sia, ma tant'è, non è che uno può sempre invocare l'arbitro o le cattive condizioni meteorologiche. Restiamo sulle notizie, petrolio e oro. Oro in calo a $1,754 al barile, petrolio invece in rialzo a $97,3 il barile. Questa mattina quello che era successo ieri in Italia, cioè uno spread schizzato a 570, i rendimenti a 7,40, i BTP a 5 anni che rendevano come quelli a 10, che è un dato gravissimo perché vuol dire che tu non riesci più a apprezzare il futuro di un paese e sei preoccupato sul brevissimo. Beh, tutto questo ha avuto una ripercussione questa mattina anche in Asia. Tokyo è chiuso con un meno 3% per i timori verso l'Italia. Hong Kong è crollata del 5,5%, sempre a giudicare da quello che dicono le agenzie asiatiche, per timori verso l'Italia. E questa mattina il BTP a 5 anni aveva toccato un nuovo record al 7,80%. Tant'è che la borsa va aperto anche in negativo questa mattina, meno 1,3%. Poi verso le 10 BTP è iniziato a scendere come rendimento, mentre saliva in Francia. In Francia lo spread e il rendimento dell'obbligazione francese sono ai massimi da 21 anni. Tant'è che la Banca Centrale Europea si è messa a comprare anche obbligazioni francesi. E poi c'è anche la Banca Centrale Europea sull'Italia, nel senso che secondo alcuni operatori oggi la Banca Centrale Europea si è messa a comprare in maniera più aggressiva, più intensa, titoli di Stato italiani. Evidentemente anche per lei il chiarimento, diciamo, del Quirinale su chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio è un elemento in più per andare a comprare sul mercato BTP italiani, quindi mantenendo più basso di quello che non sarebbe il rendimento della nostra obbligazione. ancora poi alle 2 siamo arrivati da 5,70 a 5,50, alle 2 pomeriggio siamo arrivati a 500 punti e al verso 2,30 siamo scesi sotto i 500 punti. Nel frattempo un portavoce del cancelliere Angela Merkel ha detto che sarebbe una scelta mortale spaccare l'euro. Ci sono voci in giro di ipotesi di un euro di serie A per i paesi del nord e un euro di serie B per i paesi del sud, in un rapporto 1-2, cose del genere. Beh, insomma, Berlino su questo è stata netta. La Francia questa mattina ha detto in Italia serve un nuovo governo, lo ha detto il portavoce del governo francese. Il numero uno della Gran Bretagna, il ministro britannico David Cameron, ha detto l'Italia è un pericolo per l'euro. I rendimenti sul debito italiano stanno diventando totalmente insostenibili. E poi attenzione alle previsioni sull'anno prossimo, perché la Germania crescerà meno del previsto, più 0,8%, la Francia più 0,6%, l'Italia si ferma l'anno prossimo più 0,1%, cioè non c'è crescita. E infatti già i segnali arrivano sull'ultimo trimestre di quest'anno, c'è un rallentamento dell'attività economica in Italia. Ripeto, l'attività economica rallenta in tutta Europa e purtroppo anche negli Stati Uniti, ci sarà un raffreddamento complessivo l'anno prossimo. Poi, come sempre in questi casi, dipende quanto rallenti tu, e noi rallentiamo più di altri. La Francia, ti ripeto, più 0,6, Portogallo meno 2,8, Grecia meno 3%, Spagna più 0,7 sia quest'anno che l'anno prossimo, noi quest'anno più 0,5, il governo ha stimato una crescita dell'1% e più 0,1% nel 2012. Le previsioni dell'Unione Europea, e anche qui attenzione, dice che la nostra stima di arrivare al pareggio di bilancio, sapete che il ministro Monti con la manovra di luglio-agosto, quella finta di luglio e quella vera di agosto, aveva anticipato di un anno il pareggio di bilancio al 2013, deficit zero, cioè quello che spendi è uguale a quello che incassi. Ebbene, non sarà più così, perché il deficit non è un numero assoluto, è un rapporto rispetto al PIL. E se il PIL cala, se il denominatore si riduce, è chiaro che anche con un deficit invariato il rapporto diventa più grande. E infatti l'Unione Europea oggi ha chiarito che quest'anno il nostro deficit sarà del 4%, sarà del 2,3% nel 2012 e dell'1,2% nel 2013, quindi non si riuscirà a raggiungere il pareggio, anche se l'avanzo primario crescerà grazie alle misure adottate in questi anni. Il nostro debito, non il deficit che è la differenza tra entrate e uscite in un anno, ma il debito che è la storia di tutti i deficit accumulati e gli interessi che paghiamo su questi deficit, dicevo, il nostro debito sarà sopra il 120% del PIL anche nel 2012, inizierà a scendere, speriamo, solo dal 2013. Ecco, al di là di chi continua a giocare con il nostro Mario Monti, ma chi cavolo l'ha mai avuto Mario Monti ospite in questo programma? Cioè, fosse un economista, a parte che non vorrebbe dire nulla, ma fosse un economista di quelli che sentiamo spesso, non abbiamo mai avuto un'intervista con Mario Monti, ma evidentemente non è bastato ad alcune persone quello che è successo in questi giorni. Non è bastato perché continua a invocare cose, scenari da golpe, ma da golpe è che a 308 deputati è andato il governo Berlusconi, non è che questo l'ha deciso Goldman Sachs. Vedo molti che scrivono: ah, Mario Monti come Draghi di Goldman Sachs sono i poteri forti. I poteri forti hanno portato 308 deputati, i poteri forti hanno spostato 570 lo spread, i poteri forti non hanno fatto fare le riforme promesse in questi mesi, in questi anni. Cioè, mi ricorda un po' quella insieme di scuse, quella campare scuse che ha un punto altissimo in un film che alcuni di voi ricordano, immagino, che si chiama Blues Brothers, quando John Belushi cerca di giustificarsi in qualche modo con la sua ex che ha mollato sull'altare scappando dal matrimonio. Ma fate sentire se ce l'abbiamo. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre Era crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio! E vabbè, sarà stata colpa dell'invasione delle cavallette. Invece, torniamo a essere seri, Olli Rehn, commissario europeo agli affari economico-monetari, che dice con queste nuove stime il 2012 rischia di essere un anno difficilissimo, il rischio di una nuova recessione. Poi mi date però anche un gufo per Rehn. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò dare di nuovo delle buone notizie. Attualmente, invece, le prospettive per l'economia europea sono fosche. Queste previsioni sono l'ultimo campanello d'allarme. La crescita in Europa è allo stallo e c'è il rischio di una nuova recessione, a meno che non si agisca in modo determinato. La chiave per riprendere la via della crescita e dell'occupazione è riportare la fiducia nella sostenibilità dei conti pubblici e nel sistema finanziario, e accelerare sulle riforme per sostenere il potenziale di crescita dell'Europa. Nel corso dell'estate, il peggioramento della crisi del debito sovrano e delle previsioni per l'economia mondiale hanno scatenato le turbolenze sui mercati finanziari in tutto il mondo. Le borse sono scese ovunque, ma in maniera più significativa in Europa. In special modo, ci sono state gravi turbolenze sui titoli di Stato di paesi o entità da sempre considerati oasi felici e che invece hanno registrato gravi perdite. Inoltre, le incertezze circa l'esposizione delle banche sui debiti sovrani hanno ridotto sostanzialmente i prestiti interbancari e hanno portato a un peggioramento significativo delle condizioni di finanziamento. Vabbè, abbiamo messo anche il gufo Olli Rehn, il quale però ha ragione, il gufo è per esorcizzare Scaramanti, come insomma le previsioni sono queste. E Olli Rehn, che è l'uomo più importante per quello che riguarda l'economia e la finanza a livello europeo, chiede all'Italia da subito una stabilità politica. Circa le misure fiscali ed economiche dell'Italia, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a vigilare sulla messa in atto del pacchetto annunciato nella lettera del governo italiano. Stiamo preparando le prime conclusioni ed è in corso una missione a Roma. Posso dirvi alcune cose. Innanzitutto è chiaro che solo un ampio e comprensivo pacchetto di riforme strutturali può rilanciare nuovamente la crescita italiana. La lettera del governo copre molti temi e contiene impegni precisi su lavoro, dismissioni, dipendenti della pubblica amministrazione e liberalizzazioni. Tuttavia, c'è silenzio su alcuni punti importanti, come la necessità di redistribuire il carico fiscale, che pesa su lavoro e imprese, spostandolo verso consumi e immobili. Inoltre, non va abbastanza lontano sulla concorrenza e non propone nuove riforme, come ad esempio quella delle pensioni, un'area dove si può fare molto di più. Infine, gli impegni non sono specificati abbastanza in dettaglio e nemmeno sostenuti da azioni concrete e da scadenze. Allora, così Olli Rehn, che ha definito Monti un amico molto competente, un ex collega, perché Mario Monti, tra le varie cose, ha fatto anche dal 94 al 2004, per 10 anni, il commissario europeo per il mercato interno prima e per la concorrenza poi. Ora, uno la può pensare come vuole su Monti, dobbiamo ancora vederlo all'opera, ma diciamo di quello che ha fatto fino adesso. Però ricordo, perché eravamo già in diretta, che Monti combinò la più grande multa nella storia a un una società che un po' di potere ce l'ha nella vita, che si chiama Microsoft. Se a Bill Gates fate il nome di Mario Monti, probabilmente gli viene l'ulcera, perché obbligò Microsoft a aprire la sua piattaforma operativa, era Windows, non mi ricordo più quale modello di Windows, scusatemi, perché l'accusò di concorrenza sleale. Ora l'Europa è stato l'unico paese, grazie a quella decisione, a prendere a dare una multa a Microsoft, che in realtà in questo settore fa il bello e il cattivo tempo un po' dovunque. Beh, Mario Monti ce l'ha fatta, quindi questo gli va riconosciuto. E poi adesso basta, perché passiamo alla Grecia. Però una cosa sui poteri forti me la fate dire, visto che continuo a vedere alcuni che leggono male, e magari mangiano anche male. Ma scusatemi, i poteri forti, o facciamo i nomi e cognomi, la Goldman Sachs ha messo il governo da noi, perché il potere forte invece, perché allora fate il paio con chi dice che Silvio Berlusconi aveva i poteri forti perché aveva la TV, i giornali, le assicurazioni, gli immobili, e la presenza in Mediobanca e quant'altro. Cioè, se ragioniamo sui poteri forti, non è che il Presidente del Consiglio fosse proprio così un proletario, Vabbè, andiamo in Grecia e poi torniamo in Italia, ammesso che si noti la differenza. Lucas Papademos, 65 anni, economista ed ex presidente della Banca Centrale Europea, il nuovo premier greco, guiderà un governo di coalizione, giurerà domani il sigillo del presidente Papoulias dopo un'altra giornata molto molto tesa. Papademos ha detto: risolveremo i problemi, ma peggiora il deficit greco, c'è un nuovo calo previsto nel PIL, come vi ricordavo. Il nostro Dionisio Xoplei, che è in collegamento da Atene, dove fa il consulente finanziario. Dionisio, buonasera. Calispera Tarisoni. Calispera a lei, guardi, qua c'è poco da scherzare. Comunque, un nuovo governo tecnico da noi, nuovo governo tecnico, che poi politico anche questo, perché un governo deve avere il Parlamento a favore, nuovo governo invece tutto politico in Grecia. Le caratteristiche di Papademos rispetto a Papandreou? Pronto? Sono completamente antitetiche, ed è per questo che ho avuto un momento di incertezza nel risponderle. Papademos è un ingegnere elettronico laureato all'MIT che ha cominciato a occuparsi di economia in una fase successiva della sua professione, e che poi è diventata la sua attività primaria, tant'è vero che attualmente è insegnante, ha una cattedra a Harvard. Quello che stupisce in questa procedura di nomina è il fatto che Papademos fosse un consulente di Papandreou, che in realtà ha tenuto questo nome nascosto fino all'ultimo momento, tant'è vero che ancora ieri sera tutti credevano, e Papandreou stesso credeva, che sarebbe riuscito a imporre Petsalnikos. Petsalnikos è l'equivalente, diciamo, di Schifani nel Parlamento italiano. A questo c'è stata una levata di scudi da parte di Nea Democratia, evidentemente, ma c'è stata anche una mozione sottoscritta da grandissima parte dei componenti dello stesso PASOK. Ecco, una domanda per concludere, che è quello che un po' ci chiediamo tutti: avrà Papademos la forza che non ha avuto Papandreou, secondo lei? Ma guardi che al momento attuale l'unica garanzia consiste nella sua personalità, perché non ci sono ancora indiscrezioni sulla composizione del governo, tranne che il governo sta cambiando fisionomia, nel senso che Samaras aveva promesso che non ci sarebbe stato nessun membro di Nea Democratia, e invece pare che domani ci saranno almeno 4 ministeri assegnati a esponenti di Nea Democratia, fra cui pare l'importantissimo Ministero della Difesa. Sì, si suppone che a questo punto, essendo maggioranza, diciamo, e opposizione, la maggioranza è pochissima, anche perché oltre al PASOK e a Nea Democratia si è aggregato anche il Laos, che è un partito nazionalista di destra, per cui gli unici che sono rimasti fuori, pur essendo stati invitati, sono il partito comunisti, i due partiti comunisti e una piccola scheggia che si è separata da Nea Democratia, condotta dalla figlia dell'ex presidente. Sì, chiaro, chiaro. Quindi quello che lei dice, no, perché adesso abbiamo il metodo preciso, quello che lei dice è che con una maggioranza così estesa, a questo punto cioè, le condizioni politiche sono le più forti possibili per fare in Grecia quello che Papandreou, con una maggioranza normale, non è riuscito a fare. Grazie a Dioniso Chiopse in collegamento con noi da Atene. Buonasera, rispondo. Grazie a lei, e poi ci risentiamo presto. Non rispondo più invece a chi dice: qui c'è il gruppo Bilderberg che il complotto contro l'Italia. Sì, infatti, il 120% del debito è un complotto, non è vero, è un complotto. Cioè, che noi abbiamo questo debito è assolutamente un complotto, non è vero. Noi siamo sanissimi come debito e conti pubblici, ma va là. Meteo, pubblicità, poi parliamo della situazione politica, dello scenario e delle ripercussioni sugli spread, la borsa, e poi chiaramente l'intervista anche con Joseph Stiglitz. 349-238-6666 per i vostri SMS. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette, non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. Eh sì, sembra un po' così, no? Non abbiamo fatto niente noi, c'è stato l'attacco esterno. Bilderberg, giustamente un ascoltatore scrive: ma insomma, ma perché quando qualche italiano piace all'estero, vedi Draghi, vedi Monti, qui iniziamo subito a disprezzarlo? Perché un po' ce lo meritiamo lo spread a 5,70. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dimmi tu se mi tocca combattere da quando ho iniziato con chi scrive, evidentemente leggendo stampa così, che esercita un ruolo politico, che questa è la vittoria dei poteri forti, Goldman Sachs, che è lei che ha fatto schizzare lo spread. È per quello che ho messo Belushi, non so se te lo ricordi, Blues Brothers, quando lui per giustificare l'abbandono dell'altare arrivava fino all'invasione delle cavallette. Sì. Perché qua, insomma, possiamo rimettere i puntini su, rido perché delle volte sennò i puntini su lei. Allora, che cosa è successo la settimana scorsa dopo un'agonia durata mesi? Che il governo ha preso 308 voti alla Camera, e cioè, pur non essendoci la fiducia, non aveva la maggioranza. Da lì i messaggi arrivati dai mercati sono stati inequivocabili, come negli ultimi tre mesi. Questo governo non era ritenuto, a torto ragione, credibile per fare le riforme promesse. E questo, siamo d'accordo almeno su questo, Guido, perché sennò sembra che Monti ce l'abbiano imposto. Ce l'hanno imposto Monti? No, ce lo siamo autoimposti, nel senso che il paese è scivolato in una condizione di allarme tale per cui diciamo, la prima cosa è quella che hai ricordato tu, cioè il governo non aveva più la maggioranza, quindi questo mi sembra un dato elementare, ma come dire decisivo. Il secondo punto è che la nostra credibilità all'estero è precipitata a livelli impensabili solo qualche mese fa, ed è questa misurata, diciamo, da quello che è l'andamento dei famosi spread e dei tassi di interesse, dei rendimenti. Insomma, vuol dire, abbiamo tutte le cifre in mano per poter commentare questa situazione, e quindi si sono create le condizioni per un voltare pagina indispensabile, perché altrimenti diciamo l'Italia rischiava di finire in una crisi senza fondo, che a sua volta avrebbe trascinato alla rovina la stessa moneta unica. Quindi questi rischi non sono scomparsi, ma dovevamo comunque agire per cercare di evitare questo declino fino a questo punto. Quindi mi sembra che poi discettare sul se il fatto che Mario Monti ha lavorato alla Goldman Sachs come Mario Draghi o altrove, mi sembra francamente che siano delle cose appunto su cui magari farsi un po' una risata sopra, insomma, perché insomma l'Italia è la settima potenza economica del mondo, la seconda potenza industriale in Europa. Beh, insomma, dico, siamo nel mondo, voglio dire, quindi dico, veramente non ha senso ogni volta ritirare fuori questa storia, diciamo, dell'oscuro complotto che diciamo è organizzato da qualcuno, non si capisce bene, nell'ombra. Sì, e che, beh, ecco, insomma, sì. C'è di tutto, da dal gruppo Bilderberg, leggo, ai massoni, immagino anche gli ebrei, i comunisti, sì, insomma, ci sarà tutto, insomma, ecco. Sì, i copti, sì. Gli assiro-babilonesi, le cavallette e quant'altro. Invece, veniamo al compito di Mario Monti, al punto politico, Guido Gentili, perché tra l'altro anche qui, attenzione, c'è chi dice è il gruppo Bilderberg che ha preso di mira l'Italia. Sarà anche così. Però è facile prendere di mira un paese che ha il 120% del debito sul PIL, che ha il primo debito europeo, che ha il terzo debito al mondo, che non cresce quest'anno e non crescerà l'anno prossimo, che non è riuscito a fare una riforma, le pensioni no perché non voleva la Lega, la liberalizzazione no perché c'erano i poteri forti, gli ordini professionali no perché c'erano gli avvocati. Insomma, è facile, diciamo che ci siamo messi nella migliore condizione per ammalarci, eccola lì, poi arriva il dottore, te la prendi col dottore. Cosa sei venuto a fare a casa mia? Lo scenario da qua a lunedì, Guido. Lo scenario da qui a lunedì è che in queste ore si va, diciamo, stiamo parlando del prossimo governo a guida Mario Monti. C'è una scadenza istituzionale che è quella dell'approvazione della legge di stabilità, che, come è stato concordato da maggioranza e opposizione, verrà licenziata sabato pomeriggio, quindi verrà approvata definitivamente sabato pomeriggio. A quel punto scatteranno le dimissioni del Presidente del Consiglio Berlusconi. Contemporaneamente sarà comunicato un calendario delle consultazioni che si apriranno al Quirinale, e quindi cose, diciamo, che avverrà nella giornata, nella mattinata di domenica, e credo che domenica sera, in modo da presentarsi lunedì a mercati aperti con un governo, si scioglierà il nodo, diciamo, del nuovo governo a guida Mario Monti. Quindi entro un weekend tutte, diciamo, le carte saranno chiare. Allora, ancora una risposta, poi andiamo col traffico. Avete voluto sputtanare Berlusconi, avete sputtanato l'Italia, adesso raccogliamo i risultati. Allora, guardi, per favore, ragioniamo di economia, ma insomma non è che le intercettazioni, diciamo, o gli stili di vita privati del Premier, chiamiamoli così, di cui ha commentato mezzo mondo, anzi tutto il mondo, li abbiamo creati noi, non erano, diciamo, redattrici o redattori del gruppo Sole 24 Ore. Uno, due, ricordo che il Presidente del Consiglio, se continuate così ve lo faccio riascoltare, ed è una minaccia. La settimana scorsa è andato a Bruxelles e ha detto che l'attacco al debito italiano era una moda passeggera, abbiamo il file, e che i ristoranti erano sempre pieni. Ora, se questo è l'atteggiamento, ma come volete che si possa salvare la credibilità di un paese? Traffico, che è meglio. Di nuovo in diretta, tra poco arriviamo anche alla borsa, prima c'è anche la Popolare di Milano. Però Guido Gentili, mentre vedo che alcuni scrivono, ma alla fine però Monti ce l'hanno imposto. Sì, diciamo che la pressione dei mercati, questo è corretto, ha chiesto un cambio di guida politica credibile, e Monti è un nome abbastanza credibile, perché insomma, 10 anni passati in Commissione Europea e quant'altro. Il tema della maggioranza però Guido, perché insomma l'Italia dei Valori si sfila, la Lega non lo vota, dentro il PDL c'è molto mal di pancia, il governo tecnico non vuol dire nulla, il governo è comunque parlamentare in Italia, deve avere una maggioranza al Parlamento. Prego. Beh, certo. è ovvio, cioè, il governo Monti dovrà ottenere comunque un voto parlamentare e quindi si faranno alla fine i conti, però mi pare che sia una situazione senza sbocco, nel senso che mi sembra difficile, diciamo, scansare comunque chi lo volesse fare questa ipotesi, un po' perché sembra l'unica, diciamo, apprezzata dai mercati, un po' perché oggettivamente non mi sembrano questo Parlamento in condizioni di poter fare delle scelte in questo modo diverse, come diverso è dimostrato dallo stesso Berlusconi, che pare che appunto già nella giornata di ieri, dell'altro ieri, è stata abbastanza chiara la sua indicazione verso questa scelta. Quindi si tratterà poi, è chiaro che la partita non è finita qui, nel senso che si tratterà poi di vedere della calibratura del profilo di questo governo, fin quanti tecnici ci saranno, se ci saranno o no dei politici a pieno titolo dentro il governo, eventualmente quanti, e quindi in qualche modo rispecchierà, diciamo, questa che è l'indicazione che arriva da pur tra, diciamo, i reciproci e i mal di pancia interni, arriva sia dal PDL che dal Partito Democratico, e oltre che ovviamente dal Terzo Polo. Quindi, insomma, maggioranza e opposizione si ritroveranno in questo governo. Ancora non è chiarissimo, diciamo, ripeto, il dosaggio dei pesi, tecnici, dice, e di politici. Beh, ma anche questo è uno scenario identico a quello greco. Oggi commentavamo che c'è il nuovo premier in Grecia, che ha una larghissima maggioranza, cioè i tre partiti addirittura. La differenza è che lui è un, oddio, neanche tanto, perché anche lui ha lavorato, insegnava a Harvard, è forse più politico di Monti, ma insomma il risultato è lo stesso, Guido. Ma voglio dire, il nuovo premier greco era il vicepresidente della Banca Centrale Europea, quindi voglio dire, certo, non mi sembra che siano dei profili così diversi. Certamente, infatti, voglio dire, Monti aveva un'esperienza forse diciamo sicuramente meno politica, nel profilo meno politico di quello di Papademos, sì, ma voglio dire, comunque anche nel caso greco ovviamente diciamo la pressione, certo, è stata forte, perché la persona alla guida è così, è certo. Quindi, no, ma io mi rendo conto che qualcuno non si rassegna al fatto che quando tu, diciamo, non ti sai gestire, io facevo l'esempio dell'influenza, uno prende una bronchite, non la cura con l'aspirina, tocca prendere l'antibiotico, non ascolti neanche il medico con l'antibiotico, non lo prendi, finisci in ospedale con la broncopolmonite, a quel punto non ti puoi lamentare se sei in ospedale con la flebo, obbligato a mangiare quando vogliono loro, perché ti sei messo nelle condizioni per andarci in questo ospedale. Per cui non capisco veramente la polemica, a meno che uno non ritenesse che, non so, Scilipoti o Borghezio potessero rappresentare meglio di Mario Monti una credibilità nei confronti dell'Europa. Guido, ci risentiamo domani e poi soprattutto lunedì, quando avremo anche un quadro un po' più chiaro della maggioranza che sosterrà il nuovo governo Monti. Grazie intanto a Guido Gentili. Grazie a voi. Che ci chiedono di far sentire il file, non ho capito quale, se Berlusconi che dice che l'attacco speculativo è passeggero o oppure quello di Belusci che trova qualunque scusa per giustificare l'abbandono della moglie all'altare. Specificate, ve lo mandiamo. Claudio Gatti del Sole 24 Ore, buonasera Claudio. Buonasera a voi. Ecco, adesso parliamo di temi, insomma, spero dove ci sia meno margine per sparare la qualunque. Che è successo a Ponzellini? Ha fatto tempo a lasciare la Banca Popolare di Milano, che è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere e ostacolo all'attività di vigilanza? Sì, la Procura di Milano, nelle vesti dei procuratori Roberto Pellicano e Mauro Clerici, ha chiesto, deciso delle perquisizioni in vari uffici e sedi sia di BPM che l'abitazione privata dell'ex ormai presidente Ponzellini, che in una serie di uffici della società di gioco d'azzardo Atlantis B+. Ecco, e quindi, se ho ben capito, l'ipotesi di reato è quella di aver aggirato nuovamente antiriciclaggio. Siccome il tema è molto delicato, ti chiedo un po' di pazienza, Claudio, perché abbiamo il GR con gli ultimi aggiornamenti e poi cerchiamo di capire qual è l'ipotesi su cui si stiano muovendo IPM 349-238-6666 per i vostri sms. Poi sentiremo anche Joseph Stiglitz. Nove e sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Claudio Gatti, dicevamo, le ipotesi nei confronti di Ponzellini, ex da pochissimo presidente della Banca Popolare di Milano, le perquisizioni oggi della, della Guardia di Finanza su incarico della magistratura. Ci puoi aiutare a capire qual è il giro? Perché qui di mezzo c'è una società che si chiama Atlantis, e la gara aperta dei monopoli di Stato e poi vinta da Atlantis, una gara sui giochi, se ho ben capito. Sì, una gara dei giochi che risale al 2004, ma che poi ha avuto degli sviluppi con il decreto Abruzzo dopo il terremoto del 2009, quando sono stati di fatto moltiplicati le macchine che potevano essere utilizzate. E la questione è che la BPM ha concesso 150-148 milioni di euro tra crediti, fideiussioni e garanzie a questa società Atlantis B+. E secondo la procura questo finanziamento era poco chiaro per l'enormità della cifra, per le dimensioni della banca cooperativa che l'ha fatta e per l'opacità societaria del cliente che ha beneficiato, che è una ditta che opera nel settore del gioco d'azzardo, la cui casa madre ha sede nelle Antille olandesi e che è guidata da un tale Francesco Corallo, figlio di Gaetano, pregiudicato per criminalità organizzata. Quello che è emerso oggi è che, a detta della procura, lo stesso Ponzellini avrebbe fortemente sponsorizzato di persona quel finanziamento e ne avrebbe avuto un tornaconto personale. In più è emersa una figura di un classico faccendiere all'italiana, tale Antonio Cannaliere, che sembra non avere alcun ruolo ufficiale nella banca, ma a detta della procura operava in posizione di supremazia nella banca, trattando i vari dirigenti e gestendo molte delle pratiche romane. Questo signore è in società con il figlio del senatore Marcello Dell'Utri in Jackpot Game, che ha avuto subconcessione di Atlantis. Quindi questo signore con Cannaliere lavora, è stato consigliore di BPM che ha finanziato Atlantis, e Atlantis ha dato una subconcessione a una società di questo signore. Eccolo, è uno degli aspetti emersi. Eccolo lì il giro su cui sono mossi appunto i PM della Procura di Milano. Cannaliere, nomen omen, anche se sarebbe giusto dire Canneuro in questo momento. Pessima battuta. A questo punto è arrivata qualche altra indiscrezione dopo le perquisizioni, perché insomma l'indagine in questo momento, se ho ben capito, non porta ad altro che se non l'indagine, cioè non ci sono arresti nemmeno domiciliari. Però non correggimi. Mi risulta che ci siano, ci sono state soltanto perquisizioni. Oggi, tra l'altro, a Roma c'è stato un episodio piuttosto curioso, perché questo Francesco Corallo ha dichiarato di avere immunità diplomatica, sosteneva di essere ambasciatore di un paese caraibico per conto della FAO. In realtà poi sembra che la Farnesina non lo abbia confermato e quindi la perquisizione è andata avanti. A quel punto Corallo ha chiamato l'onorevole Amedeo La Boccetta, che era l'ex procuratore di Atlantis, che si era dimesso una volta eletto in Parlamento, che è arrivato di corsa, ha preso possesso di un computer negli uffici di Atlantis dicendo che era suo e che era protetto dall'immunità parlamentare. Penso un po', chissà cosa c'era dentro. Forse non videogame taroccati, qualcos'altro. Chissà se poi i sindacati così potenti e importanti nella Procura di Milano hanno qualcosa da dire su questa vicenda, no? Perché li ho visti molto in agitazione negli ultimi tempi, ma ci aspettiamo che anche i sindacati della BPM dicano qualcosa. E poi a chi scrive che insomma, BPM è il nostro sponsor in questo momento, non me ne frega nulla, gli sponsor cambiano, ma sono ininfluenti sul programma, massimo rispetto, ma nessun tipo di rapporto. Grazie Claudio Gatti, passiamo però adesso alla borsa con un po' di ritardo, ma insomma c'erano le novità sul governo da affrontare prima. La borsa chiaramente sono le 18:12, non le 19:12. Gli spread a 495 sono la novità più importante di oggi, da 570 che erano ieri, e quindi comunque 70 punti recuperati, ancora a un livello altissimo, perché 500 punti restano insostenibili, con i rendimenti al 7% resta un livello insostenibile. La borsa italiana oggi è tra le poche positive, più 1% Milano, Parigi ha perso lo 0,34%, Francoforte alla fine ha chiuso in positivo più 0,5%, Madrid ha perso lo 0,36%, l'America sta guadagnando l'1%. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Radio Corriere Sole 24 Ore, andiamo rapidi. I titoli, vedo bene soprattutto Azimut più 7,30, Pirelli più 5,20, più 4,20, Fiat Industrial più 5,20, Unicredit più 3,92, Mediolanum più 3,80, Banco Popolare più 3,60, Atlantia più 3,30 come Exor, Effimeccanica guadagna 3%, Intesa San Paolo il 2,60 di rialzo come Fiat e Ubibanca. Chiudiamo con Prismian più 2,1 come Telecom Italia. Negativa Fonderia SAI meno 2,86%, Ansaldo meno 2,86, Automatica meno 2,70, A2A meno 2,20, Impregilo meno 1,20 come Enit e Tenaris. Mediaset meno 0,50. Azimut, allora, Pirelli sono i conti, le prospettive diffuse ieri, quindi salterei Azimut da una parte, Mediaset dall'altra. Sì, per quanto riguarda Azimut, il titolo è scattato dopo l'annuncio dei conti dei primi 9 mesi, che pur essendo in calo, l'utile è sceso del 13,9%, sono risultati superiori alle attese del mercato. Inoltre la posizione finanziaria netta rimane positiva ed è migliorata rispetto al settembre 2010, quindi gli investitori hanno sostenuto il titolo. Come dicevi tu, Pirelli sono i target del piano superiori alle stime, mentre per quanto riguarda Mediaset il titolo per gran parte della giornata è stato in territorio positivo, cercando quindi di mettere a segno un pur limitato rimbalzo dopo il meno 12% di ieri. Invece sul finale questo rimbalzo non è riuscito, è passato in rosso e ha chiuso con un calo di mezzo punto percentuale. Negli ultimi 4 giorni la flessione si avvicina al 15% per quanto riguarda Mediaset, ed è ovviamente legata, oltre che alla trimestrale, agli avvenimenti politici e quindi alle annunciate dimissioni del Presidente del Consiglio. Eh sì, ancora sui titoli, abbiamo anche una matricola, oggi c'è chi dovrebbe prendersi il premio Coraggio o il premio Leone dell'anno, si è quotata in borsa con questi chiedi Luna, Terni Green, com'è andata? È stata la migliore dell'intera piazza affari, ha guadagnato il 34%, in asta di volatilità per gran parte della giornata, la società è attiva nel settore di recupero rifiuti e sembra che almeno questo vada bene. Ancora citiamo A2A che è uscita con i dati, l'utile è sceso a 114 milioni di euro, debito è salito a 3,9 miliardi di euro, l'effetto di questi conti sul titolo? Sì, per quanto riguarda A2A pesare è stato soprattutto una correzione e un peggioramento delle stime sul margine operativo lordo per il 2011, la società ha annunciato di aspettarsi un calo tra il 10 e il 15% ed è una previsione in lieve peggioramento rispetto a quanto indicato in passato, il titolo quindi ha chiuso in calo del circa il 2,2% a 0,895 euro. Grazie, grazie a Paolo Pronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso c'è il traffico, poi l'intervista che abbiamo realizzato oggi col premio Nobel dell'economia Joseph Stiglitz, chiaramente parlando di Italia, di rischio default, di tenuta del sistema. C'è qualcuno che mi chiede se ho commentato lo spread francese. Sì, è a 160, il massimo da 21 anni. Oggi la Banca Centrale Europea è intervenuta anche per comprare obbligazioni francesi. Attenzione ai cugini transalpini. Poi su sto spread, molti avranno visto il servizio delle Iene ieri in televisione, sì, molti parlamentari non hanno ben capito cosa sia lo spread, alcuni dicevano per sembrare fichi lo spread, però in inglese si pronuncia spread. Traffico! Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra! Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette, non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. Ah. Eh no, non è stata colpa dell'Italia e di questo governo, ce l'hanno imposto i poteri forti dall'estero, Mario Monti, la Goldman Sachs, il gruppo Bilderberg, la finanza, non è colpa nostra, non è mai colpa nostra. Non voglio tornare sul tema, però abbiamo chiesto a Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia nel 2001, un uomo che nel 2002 già avvertiva sulla globalizzazione con un libro fondamentale, La globalizzazione e i suoi oppositori, e poi nel 2008 verso un nuovo paradigma dell'economia monetaria, nel 2010 l'analisi di quanto stava capitando con un libro che si chiama Bancarotta, l'economia globale in caduta libera, sempre casa editrice Einaudi. Dicevo, gli abbiamo chiesto in primo luogo quanto lui ritiene che vi possa essere un rischio default, cioè un rischio di dover ristrutturare il debito italiano, di non reggere la situazione con questi spread, con questi rendimenti nei BTP, e se c'è vita dopo il default. There certainly is life after default. Argentina has shown. Sicuramente c'è vita dopo il default, come hanno dimostrato Argentina, Brasile e Russia. L'Argentina è cresciuta molto rapidamente nel periodo successivo al default, dopo aver abbassato il tasso di cambio e aver ristrutturato il debito. Penso che il punto essenziale per l'Italia sia la risposta politica a livello europeo. Se l'Europa unisce le forze, se crea strumenti come i bond europei, allora non c'è la necessità che l'Italia vada in default. Gli Stati Uniti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, avevano un rapporto debito-PIL molto più alto di quello dell'Italia. La media europea del rapporto debito-PIL è più bassa di quella americana. Ma in Europa ci sono grandi differenze. Se l'Europa potesse riaccogliere fondi a tassi di interesse bassi, grazie alla sua forza complessiva, potrebbe utilizzare queste risorse per sostenere l'Italia con effetti positivi sul debito. Ma se l'Italia viene lasciata da sola, allora c'è un rischio reale del fenomeno chiamato delle dinamiche instabili del debito. E quindi, secondo Stiglitz, la soluzione per salvare l'Italia può essere una soluzione solo europea. Interessante la seconda risposta che ci ha dato oggi, e cioè la domanda, se insomma, come mai fino a giugno il nostro spread era 220 punti e quindi stava stabilmente lì da 2-3 anni, 100 punti più della Francia, nemmeno, e poi improvvisamente inizia a schizzare. Molti hanno detto, l'abbiamo detto anche noi, la coincidenza con le elezioni amministrative e poi il referendum e l'attacco, diciamo, a Tremonti è notevole, è evidente. Stiglitz però ridimensiona il ruolo della politica in questa risposta, cioè la debolezza, sì, c'è uno spread politico, ma c'è anche il fatto che i mercati si sono convinti che l'Italia con quel debito ha ottime possibilità di non farcela, o comunque buone possibilità di non farcela. Well, I wouldn't say political. Non direi che è politico, direi che i mercati sono molto volubili e instabili. Ci possono essere cambiamenti di percezione molto rapidi e credo che sia quello a cui stiamo assistendo qui, in questo momento. Quando i tassi di interesse sono alti, le dinamiche del debito sono molto instabili. I paesi hanno difficoltà a pagare il debito e proprio perché non possono ripagare il debito, i tassi di interesse sono alti. Dall'altro lato, se i tassi di interesse sono bassi, non c'è problema a ripagare il debito. Questa è la situazione in cui si trovava il Brasile poco più di 10 anni fa. Molti pensavano che il Brasile dovesse fallire, che fosse uguale all'Argentina e che non potesse ripagare il suo debito. Ma si è sganciato dal Fondo Monetario Internazionale, ha cominciato a crescere e oggi è in ottima forma. Today it's in very robust shape. This is a phenomenon that economists call multiple equilibria. Questo è un fenomeno che gli economisti chiamano di equilibri multipli. Un'economia può trovarsi in posizione di equilibrio con tassi di interesse bassi e quindi con un debito sostenibile, giustificando così bassi tassi di interesse, oppure ci possono essere alti tassi di interesse. Ciò che accade è che i mercati sono molto instabili e saltano da una situazione all'altra. e un numero di fattori contribuisce a questi cambi di posizione. Per esempio, prospettive irrazionali sulla politica, oppure il pericolo di contagio dalla Grecia. Ma qualunque sia la cosa che fa scattare i movimenti irrazionali, se ci si aspetta tassi di interesse alti, allora il mercato riguarda la situazione e dice: mio Dio, con tassi di interesse alti, la probabilità che ci sia default è elevata. E questo porta probabilmente a tassi ancora più alti. Questo tipo di biforcazione è qualcosa che abbiamo visto in passato e rappresenta sempre un rischio quando i mercati finanziari sono instabili. Sfortunatamente l'Italia si trova in questa situazione. Potrebbe darsi che un cambiamento di scenario politico possa improvvisamente, razionalmente e irrazionalmente, dare fiducia alla gente, muovere l'economia in una situazione tipica di bassi tassi di interesse, così che siano ben visibili i punti di forza italiani. And at the low interest rate, everybody will say, oh, look at all these virtues of Italy. Ecco, l'ultima domanda che abbiamo fatto a Stiglitz, che avete sentito, dice: sì, c'è stata una variabile politica, ma in realtà quando i mercati ti si mettono contro perché decidono che con questi tassi di crescita bassi, con le riforme non fatte, col debito che avete, non siete affidabili, è difficile andare contro, occorre interrompere una spirale, perché poi così aumentano i tassi, tu paghi di più il tuo debito e chiaramente a quel punto ti indebolisci e i mercati ti ripuniscono ancora, quindi è una profezia che si autoavvera. Ecco, gli abbiamo chiesto se però, guardando il movimento dello spread negli ultimi tre mesi, non si osservi un qualcosa anche di più razionale, e cioè le varie difficoltà nel governo portano sempre a un aumento dello spread. Penso che sia estremamente difficile guardare indietro e chiedersi cosa sarebbe successo se si fosse agito in modo più determinato sul fronte dei conti pubblici. Una cosa che si può dire è che quanto accaduto in Spagna poteva accadere anche in Italia. La Spagna, il giorno dopo l'approvazione delle misure di austerità, è stata declassata. E questo è avvenuto perché le agenzie di rating sapevano che la Spagna avrebbe fatto ciò che aveva annunciato, ma in questo modo ci sarebbe stato un rallentamento della crescita economica. Perché è a questo che portano le misure di austerità. Lo stesso poteva accadere in Italia. E visto che avete adottato misure di austerità, ecco allora il downgrade e la preoccupazione dei mercati su dove stia andando l'economia. Questa è la situazione attuale. Il punto centrale è dove si trovi ora l'Europa, con la rigidità dell'euro, con questo ruolo della banca centrale, con la mancanza di un fondo di solidarietà che aiuti i paesi in difficoltà. È quindi quasi inevitabile che un qualche paese abbia i problemi che l'Italia ha oggi. It is almost inevitable that one country or another face the kinds of problem that Italy is facing today. E questo non è bello, perché Stiglitz ci ha detto appunto: attenzione, o cambia l'Europa o cambia la Banca Centrale Europea, che diventa come la Federal Reserve, che può stampare moneta. Se non la smette di essere ossessionata dall'inflazione e dalla variabile tedesca, quello che è successo all'Italia potrebbe capitare anche a un altro paese. Nel frattempo Bini Smaghi si è dimesso da membro della Banca Centrale Europea, Mario Monti è salito al Quirinale, penso per un ringraziamento per essere stato nominato senatore a vita. Anche questo, secondo i complottisti, fa parte delle mosse della Trimulti, del Bilderberg, del complotto pluto-giudaico-massonico. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio. Le cavallette da Sebastiano Barisoni. Le auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani per cercare di spiegare anche domani non i complotti, ma le variabili che osserviamo. Dalle 17 in poi tornerà Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.